Europa 24. Cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli. Oggi le notizie dall'Europa ci raccontano, da una parte, un Tony Blair, naturalmente ex premier britannico, che avvia un progetto. Gli inglesi parlano di crusade, crociata, forse un po' forte come espressione, ma insomma l'idea è quella di far fare retromarcia a un intero paese. La Gran Bretagna potrebbe ripensarci, è quello che lui chiede, di fatto con un appello pubblico in cui sollecita coloro che la pensano come lui, cioè a sollevarsi e a spingere dunque un movimento d'opinione per tornare sulla scelta fatta nell'estate scorsa. L'ex premier, che dice di essere comunque pronto a discutere di limitazioni all'immigrazione, negando però che l'uscita dell'UE possa avere in sé degli elementi per garantirlo, accusa di fatto Theresa May della gestione di questa fase e si fa rispondere da parte di Theresa May a stretto giro di posta. In qualche modo la May dice: bene, lui ha fatto la sua politica, il popolo britannico si è espresso, cosa innegabile, e questo è quanto. Insomma, staremo a vedere adesso un Blair che torna in campo o prova a tornare in campo in chiave anti-Brexit. Invece i numeri che ci proiettano verso il 22 febbraio sarà di fatto una sorta di day europeo sui conti pubblici, quelli degli stati, naturalmente un occhio particolare per quanto riguarda il nostro paese. Sentiamo. L'asticella dell'Europa non cambia e si susseguono le simulazioni dei tecnici in avvicinamento al D-Day europeo, che chiama l'Italia a definire la manovra aggiuntiva strutturale di finanza pubblica il 22 febbraio, quando la Commissione europea ha previsto, in base alla tabella di marcia, di pubblicare il rapporto di analisi e valutazione dell'attuazione della regola di riduzione del debito da parte dell'Italia. Lo sforzo che l'Europa chiede al nostro paese era e resta dello 0,2% del PIL, cioè una correzione del deficit strutturale di due decimali. Nonostante la crescita un po' più sostenuta delle previsioni, con il 2016 che si dovrebbe chiudere a più 0,9%, per la manovrina il governo resta quindi a caccia di 3,4 miliardi da reperire, possibilmente senza ricorrere ad aumenti delle accise. Sul tappeto c'è la messa a punto delle misure nate dal confronto con Bruxelles. I tempi però potrebbero anche non essere così stretti. La procedura europea sulla valutazione del debito pubblico prevede vari passaggi e la decisione su un'eventuale infrazione non necessariamente arriverebbe il giorno stesso in cui la Commissione pubblica l'analisi tecnica sul debito italiano. La data quindi potrebbe anche slittare. Le scelte più imminenti restano comunque quelle sull'aggiustamento dei conti, cercando misure adatte a sostituire un aumento delle accise e imposte indirette quantificate nelle stesse lettere a Bruxelles in circa 1,5 miliardi. Al momento la correzione sarà composta per un terzo da tagli di spesa, circa 8-900 milioni, e per i restanti 2,5 miliardi da aumenti delle entrate. E mentre si cerca l'aggiustamento ulteriore dello 0,2%, il rapporto della Commissione di analisi del debito italiano sarebbe ormai pronto, praticamente al 99%. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Concludiamo con una battuta sui temi dei grandi accordi commerciali. Vi abbiamo parlato spesso del TTIP. Il TTIP doveva essere, diciamo, la conclusione del mandato di Obama con un accordo con l'Europa. Così non è stato, tutto addirittura è stato di fatto cancellato. Chissà quando se ne riparlerà. Si è parlato del CETA, dunque lo stesso genere di accordo, ma tra Europa e Canada. Poco fa a Berlino il CETA dovrà fare da modello anche per gli accordi di questo genere, per gli altri accordi, ha detto Angela Merkel in conferenza stampa con il premier canadese Justin Trudeau. Trudeau ha sottolineato l'importanza del CETA, ha definito una vittoria dell'Europa, della Germania e del Canada e il segnale di ciò che si può raggiungere quando gli stati lavorano insieme. Per adesso è tutto, adesso come sempre tutti convocati, noi ci risentiamo domani mattina, anzi, visto che domani in realtà è sabato, io me ne stavo dimenticando, domani mattina abbiamo proprio un reportage dedicato al CETA, quindi tutti gli approfondimenti su questo importantissimo accordo commerciale tra Europa e Canada. Buon weekend a tutti. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.